in primo piano. Alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre come tutti gli altri quotidiani oggi sulla questione della Nord Corea, Stati Uniti e il lancio del missile fatto da Pyongyang sopra il Giappone. Il taglio però del Sole 24 Ore è molto economico fin dal titolo: mercati in trincea con euro e oro. Pechino ha difeso in questo caso Kim Jong-il. Il focus del Sole 24 Ore, che trovate a pagina 3, è sulle reazioni delle quotazioni dell'oro, del petrolio, dell'euro e anche per quanto riguarda i movimenti che ci sono stati sui titoli di Stato. Poi due articoli collegati, perché riguardano entrambi in un certo senso l'ambiente. Da una parte una proposta che è al vaglio del Ministero del Tesoro per riordinare l'ecobonus con detrazioni commisurate ai risparmi energetici ottenuti, una delle tante misure che andranno poi precisate e perfezionate quando sapremo esattamente che forma prenderà la manovra d'autunno. E poi vi segnalo a pagina 9 di Jacopo Giliberto, richiamato in prima pagina, un lunghissimo articolo che prende spunto da un rapporto, una nuova relazione sullo stato dell'ambiente italiano, 958 pagine, e Jacopo Giliberto, che è un grande esperto di energia oltre che di ambiente, ci racconta il ritratto che emerge da questa relazione, un ritratto d'Italia che lui definisce in grigio verde. Migliora la situazione dell'ambiente, ma continuiamo a sprecare la nostra bellezza, che non è soltanto architettonica naturalmente, ma anche appunto dell'ambiente. Il Corriere della Sera: la provocazione della Nord Corea spaventa le borse. La fotonotizia però è quella di Donald Trump e la sua First Lady Melania, che scendono dall'aereo, dall'Air Force One, atterrato in Texas. Hanno evitato, spiega Marilisa Palumbo dalla prima pagina, poi trovate gli articoli a pagina 15, hanno evitato Houston perché di fatto potevano essere quasi, visto che si muovono come ovvio che sia, con una scorta, con molte persone intorno, potevano essere d'intralcio ai soccorsi in corso, e quindi hanno visitato altre zone devastate dall'uragano Harvey. La Repubblica: USA e Giappone pronti a fermare la Corea. La fotonotizia è dedicata a un fotogramma tratto da una TV giapponese che fa vedere il percorso del missile nordcoreano verso il Giappone. Molta enfasi però, addirittura con un carattere maggiore in prima pagina, anche se appunto il titolo principale è USA e Giappone pronti a fermare la Corea, sulla misura di cui avete sentito anche nel GR, questo assegno da 490 euro definito reddito di inclusione. Benché lo avessero più volte invocato, il Movimento 5 Stelle lo ha definito poi una misura insufficiente. L'altra notizia per quanto riguarda gli stanziamenti dello Stato è quella sull'abusivismo. Sono pronti 2 miliardi per chi abbatte case irregolari e ricostruisce a norma. L'analisi della notizia sul reddito di inclusione è di Chiara Saraceno, sociologa, che dice: i dimenticati però sono ancora troppi. Ultima prima pagina, prima di lasciarci un attimo per la pausa sul traffico, quella della Stampa, fotonotizia dedicata al Giappone, perché c'è stato proprio un, come è naturale che sia, se sai che un missile sta per colpire il tuo paese, sono scattate tutte le misure di emergenza, e quindi nella foto si vede la polizia davanti al quartiere dell'associazione Pyongyang dei coreani a Tokyo, che transenna questa zona. Il titolo principale però è dedicato a un'inchiesta della Stampa che poi trovate a pagina 2 e 3, Torino nella città dove i migranti vivono sottoterra, e il tema naturalmente è quello delle case o dei luoghi occupati abusivamente da chi non ha un tetto. Ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine. Il Messaggero Ah, la fotonotizia simile a quella che abbiamo visto sulla Repubblica con un fotogramma, naturalmente con i caratteri giapponesi perché è tratto da una rete All News di Tokyo, e però fa vedere la gittata del missile, il punto di partenza della Corea e di come ha sorvolato il Giappone. Il titolo principale però è dedicato alle pensioni donne, anticipo più facile. Secondo la ricostruzione del Messaggero, anche qui appunto siamo ancora un po' alle ipotesi prima che venga esattamente delineata la manovra d'autunno, il governo pronto a ridurre di 2 anni i contributi richiesti per accedere all'APE social, lotta alla povertà, varato il reddito di inclusione, questo l'abbiamo visto anche sugli altri giornali. Avvenire, freno alla povertà, Avvenire apre su questa novità del reddito di inclusione che a seconda dei giornali viene indicato con 490 o 485 euro e sottolinea anche che il premier Gentiloni ha aggiunto che poi i fondi aumenteranno nel 2018. In prima pagina anche la notizia della Nord Corea che scrive l'Avvenire, alza il tiro e il Sud risponde, il Sud della Corea. La fotonotizia però è dedicata alla giornata della CEI per la custodia del creato e il titolo Anche il turismo deve essere sostenibile. Il tema è quello naturalmente dell'importanza del turismo per l'Italia, ma anche di come i turisti e non soltanto devono anche, qualsiasi comportamento abbiano, devono tener conto dell'impatto che ha sull'ambiente. Il Fatto Quotidiano, qualche ascoltatore, e approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. Qualche ascoltatore si lamenta che io non approfondisco abbastanza il Fatto Quotidiano, purtroppo non c'è mai tempo per approfondire tutti i giornali. L'apertura cerco di darla sempre, poi all'interno un po' a seconda dei giorni. Oggi il Fatto Quotidiano si concentra sulle imminenti elezioni politiche in Sicilia, che consideriamo un po' tutti un primo test importante, primo perché la Sicilia è comunque una delle più grandi regioni italiane, poi perché è in atto uno scontro e anche una dimostrazione di quanto siano in difficoltà le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, perché se il centrodestra sembra aver trovato un accordo sul candidato, il centrosinistra non l'ha ancora. L'unico che ha un candidato sicuro, che infatti ha fatto anche campagna elettorale a tappeto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è il Movimento 5 Stelle, e quindi il Fatto Quotidiano titola una campagna con i fichi secchi, quella politica per le regionali in Sicilia, i partiti al verde e il ritorno dei capi bastone, cioè i responsabili di un partito, in questo caso nella regione, che appunto dettano le regole. Il PD è in bolletta, Forza Italia non se la passa meglio, il Movimento 5 Stelle non spende, i poteri dell'isola iniziano a posizionarsi. Libero invece titola su quella notizia che c'era ieri sui giornali, non ricordo, forse non ne abbiamo dato conto. In ogni caso c'è una condanna definitiva all'ex leader e fondatore della Lega Umberto Bossi, e i magistrati hanno paventato un sequestro di 48 milioni di beni al Carroccio. Da qui il titolo molto forte di Libero, vogliono uccidere la Lega. Diabolico, questa è l'aggettivo usato, diabolico piano politico-giudiziario, e l'articolo è di Renato Farina. Vittorio Feltri invece se la prende con Dacia Maraini, che ieri nella rubrica sul Corriere ha scritto quello che Vittorio Feltri definisce un pezzo denigratorio dedicato a coloro che in Italia non fanno soldi di gioia davanti alla inarrestabile invasione degli stranieri. E quindi il titolo del pezzo di Vittorio Feltri si intitola Dacia Maraini scrive a Vanvera. La fotonotizia però è dedicata a Michela Vittoria Brambilla, ex esponente di punta di Forza Italia, nota per le sue battaglie, per la sua passione ambientalista e a favore degli animali, o per porre fine alle varie crudeltà contro gli animali nel nostro paese e non solo. La sua ultimissima battaglia, di cui Libero dà conto, è quella contro la pratica ancora più dolorosa per gli animali che non una macellazione, diciamo, normale, che comunque non è mai una, non credo sia una particolarmente piacevole. C'è però la macellazione islamica, che è ancora più crudele perché prevede il dissanguamento lento. E quindi la battaglia di Maria Vittoria Brambilla è riassunta in questo virgolettato: costringiamo l'Islam a macellare con pietà. Tra l'altro, appunto, si celebra in questi giorni anche la festa del sacrificio. Ci sono alcune fotonotizie, soprattutto nei paesi a maggioranza islamica come il Pakistan, a maggioranza musulmana, dove la religione principale è quella musulmana, e anche di questo si dà conto in alcuni giornali. Il giornale sferra invece un attacco, potremmo dire l'ennesimo attacco, a Laura Boldrini, e sono attacchi talmente forti e a volte sproporzionati che persino io, che non sono certo una fan del presidente della Camera Laura Boldrini né delle sue battaglie, per esempio sull'obbligare a convertire in femminile tutti le definizioni al maschile, dico, persino io, di fronte a attacchi così forti e così sproporzionati, mi sento di difenderla. Il giornale titola proprio, è il titolo di prima pagina su 4 delle 5 colonne disponibili sul giornale: Boldrini clandestina. Accusa la polizia violenta, perché sappiamo, Laura Boldrini è uno dei motivi per i quali è così facile criticarla. Esterna su tutto, quindi aveva esternato anche sulle modalità con cui è stato iniziato lo sgombero del Palazzo di Roma, di Piazza Indipendenza, e quindi in quel caso ha accusato la polizia violenta. Però tace sugli stupratori nordafricani, scrive il giornale. Poi insulta chi la critica. E intanto un accenno magari alla sostanza, il fatto da cui prende spunto questo attacco a Laura Boldrini, cioè l'orribile stupro di gruppo che è avvenuto a Rimini. Sono 4 gli stupratori, non sono ancora stati trovati, e quindi a Rimini il branco è ancora libero. La Verità: tasse ai terremotati, sgravi agli abusivi. Questa è l'interpretazione un po' delle ultimissime aggiornamenti, appunto, su come verranno cambiato il regime fiscale per i terremotati. Scrive La Verità, e poi argomenta su questo il direttore fondatore della Verità, Maurizio Belpietro. Allo studio una super sanatoria per chi abbatte la costruzione irregolare, un quinquennio senza TASI e IMO e permesso di ricostruire. Secondo La Verità, peraltro, il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, è un'elemosina di Stato. Molto critico anche Mario Giordano sulla questione delle reazioni allo stupro di Rimini. Secondo Mario Giordano, tutte zitte, anche alle femministe lo stupro piace. Questo è il titolo terrificante dell'articolo di Mario Giordano, il riferimento naturalmente a quel post altrettanto terrificante che abbiamo letto l'altro giorno, poi rimosso subito da Facebook, del mediatore culturale che diceva che le donne, appunto, all'inizio si spaventano un po' quando vengono stuprate, ma poi alla fine gradiscono. Vi segnalo 2 articoli interessanti dalla Verità. Il primo è la classifica dei giudici più lenti d'Italia, lo trovate poi a pagina 11 di Maurizio Tortorella. Pensate, a Roma 16 mesi per la motivazione di una sentenza, il che equivale, se lo dividiamo per i giorni, a 7,9 parole al giorno. Ma il ritratto di Giancarlo Perna di oggi è fantastico, è di Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS, poi PDS, poi PD, e sapete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che viene definito, anche giustamente, perché prima di essere un DS era stato un membro del Partito Comunista Italiano, il comunista che guida la carica della casta contro il taglio dei vitalizi. Il ritratto è a pagina 9 e vi leggo le prime righe. Non è tipo Ugo Sposetti da lasciare le cose a metà. L'ex tesoriere dei DS, oggi senatore del PD, ha promesso: a settembre affosso i tagli ai vitalizi parlamentari, ossia aizzo una casa micciola, a Palazzo Madama. Forse, ecco, si poteva, Giancarlo Perna poteva evitare di usare questo termine, perché dal terremoto del 1883 si è entrato nel linguaggio non comune, però si dice, si sente dire, faccio una casamicciola, nel senso di faccio un grande pasticcio, visto che c'è stato un terremoto 10 giorni fa, proprio a Casamicciola si poteva evitare in ogni caso. Ossia, aizzo una casamicciola a Palazzo Madama e mi alleo col demonio per mandare tutto all'aria. Lo farà, siatene certi. È un duro coi baffetti, un vero comunista d'altri tempi che crede nella politica e ne difende i privilegi, incluse le pensioni di loro signori. Punto, a me piace. Ma. Il manifesto Voto di Povertà. Il titolo è come se implicasse che questa è una misura elettorale, e il manifesto è molto critico perché dice: l'importo dell'assegno è troppo basso, sottoposto a graduatorie discriminanti, e coprirà 400.000 famiglie, solo un quarto dei nuclei bisognosi. Dal PD unanime esultanza elettorale. Interessante questa notizia che ho trovato praticamente e sicuramente con questa enfasi solo sul manifesto, cioè la nomina del nuovo commissario per il terremoto. Non mi sembra una notizia da nulla. Dopo aver deliberato lo stato di emergenza per il terremoto di Ischia, che ha fatto 3.000 sfollati e ha già portato allo stanziamento di 7 milioni per l'emergenza, il Consiglio dei Ministri ha anche nominato come commissario delegato dalla Protezione Civile l'architetto Giuseppe Grimaldi, in passato scelto da De Luca come commissario per l'alluvione del Sannio. E c'è un profilo di questo commissario che dovrà appunto occuparsi del terremoto, della ricostruzione a Casamicciola, in particolare sull'isola di Ischia dopo il terremoto. Allegato al manifesto, soprattutto per chi ama i fumetti, c'è Alias con appunto un numero praticamente di 32 pagine, tutto dedicato ai fumetti, e c'è anche una bella intervista a Igor, che oltre ad aver fondato la casa editrice Cocconino Press, che è una casa editrice che poi è stata acquisita dalla Rizzoli, ma pubblica solo fumetti, è anche lui stesso un grande autore di graphic novel, di fumetti. Vi segnalo alcune prime pagine dei giornali stranieri come sempre. La Frankfurter Allgemeine apre su Trump che minaccia la Corea dopo questo lancio del missile, e poi nelle pagine di economia un ritratto sul compleanno di Luca di Montezemolo, che il 31 di agosto, cioè domani, compirà 70 anni. Le Figaro apre su Trump, quindi la visita di Trump nei luoghi colpiti dalla tempesta Harvey. Il Washington Post sottolinea che adesso Harvey, lasciato il Texas, si dirige verso la Louisiana. E poi molto interessante l'approfondimento del Guardian, perché mentre giustamente noi diamo tanto spazio a quello che sta succedendo in Texas, Mumbai in India è paralizzata dalle inondazioni, perché questa è stata la più potente stagione monsonica da anni. I morti sono accertati 1.000 in India, Nepal e in Bangladesh, e milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case. Questo appunto mentre succede anche una cosa simile in Texas, ma questa notizia dell'India con un numero esponenziale di morti e di sfollati rispetto a quelli di Houston, io l'ho trovata solo sul Guardian. Ci lasciamo per una breve pausa. In primo piano. Buongiorno, buongiorno, sorrido perché nella pausa ho scorso i messaggi, e tra l'altro ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che li stanno mandando al 349-238-6666 o sms o whatsapp, anche quelli negativi, cioè chi mi consiglia oggi, l'altro giorno era di darsi all'ippica e oggi invece, tutti i messaggi non firmati naturalmente, oggi invece sono braccia strappate all'agricoltura. Un'espressione tra l'altro che trovo terribile, perché toglie dignità al lavoro degli agricoltori, che invece continua, tra l'altro adesso è sempre più, affascina sempre di più i giovani, c'è un ritorno a questo lavoro, quindi forse in un'altra vita non considerandomi braccia strappate all'agricoltura, farò l'agricoltrice. Vi segnalo ultimissima prima pagina, prima di passare alle pagine interne, quella della Bild. La Bild, lo diciamo sempre, è un quotidiano tedesco a larghissima diffusione, si calcola che venda circa 6 milioni di copie, quindi in assoluto uno dei più diffusi e venduti in Europa. E forse a volte esageriamo un po' a riprenderlo, perché è proprio il format del tabloid, cioè foto in prima pagina quasi sempre, c'è qualche donnina seminuda o donnona seminuda come oggi, ce n'è una pettoruta e anche con un considerevole lato B. Perché la notizia è quella di una protesta di ambientalisti che mezzi nudi, donne comprese, abbracciano gli alberi. E tra l'altro il titolo è comicissimo, perché dice: ma questa è una po-test, con la R piccolina, perché protest vuol dire protesta, ma po in tedesco è un modo colloquiale di dire lato B. Questo per dirvi il tipo di titoli e di foto che ci sono in prima pagina. Continua l'approfondimento, e alcuni ascoltatori mi hanno confermato che il problema esiste in Germania della cattiva ricezione, la cattiva copertura per i telefoni cellulari, e c'è la storia di due ragazzi che dicono: dobbiamo salire sempre su una scala e metterci in alto e cercare, con quelle scene un po' comiche dove si cerca il segnale per avere appunto il segnale e poter usare i cellulari. Un approfondimento sulla morte sull'anniversario, che è precisamente domani, nel senso che il fatto era avvenuto tra la notte del 30 e del 31 agosto del 1997, sulla morte di Lady Diana, il titolo è: anche gli angeli possono essere freddi. E l'approfondimento è di quello che viene definito un esperto di famiglia reale, che dice che spiega ai lettori della Bild il lato oscuro della principessa Diana. Passiamo alle pagine interne. Vi dicevo, a pagina 9 del Sole 24 Ore, il lungo articolo di Jacopo Giliberto che ci spiega se la bella Italia spreca il suo ambiente. L'inquinamento cala, perché questo dice il rapporto, ma si fa ancora troppo poco per ridurlo. E sul fronte del dissesto idrogeologico abbiamo il 60%, pensate, di tutte le frane registrate in Europa. Un approfondimento, come sempre, l'agenda del professionista, arrivata alla puntata 22, oggi è sull'ACE. Irrilevanti le riserve da utile al fair value, quindi la stretta del decreto che sappiamo è stato approvato il 3 di agosto, quindi a pagina 16 trovate tutte le novità su come opera questa deduzione, e appunto la famosa o famigerata ACE. Un approfondimento di Nicole dell'Innocenti, che è la nostra corrispondente da Londra, a pagina 24 del Sole 24 Ore di oggi. Su questa lo trovate anche su altri giornali, per cui c'è più sostanza e meno così, meno fotografie anche, e meno fumo, potremmo dire. La stretta di Londra sui compensi dei CEO. A volte escono, ciclicamente escono questi dati che ci mostrano come dal dopoguerra sia cresciuto costantemente il divario tra la retribuzione delle persone di primo livello, potremmo così dire così, che lavorano in un'azienda, e quella del massimo livello, che è l'amministratore delegato, il chief executive officer. Pensate che i top manager inglesi ricevono in media 5,3 milioni di sterline all'anno, e questo vuol dire 386 volte il salario minimo. E se oltre il 20% degli azionisti non approva questo schema retributivo, i nomi e i dettagli delle società verranno segnalati in un registro pubblico. Da qui appunto quella che viene definita la stretta per ridurre o comunque rendere noto il divario tra la retribuzione dell'amministratore delegato e quella dei dipendenti. Sul Corriere della Sera Leonard Berberi fa un approfondimento sulla siccità, perché se è vero che c'è un'emergenza idrica a Roma, sappiamo che è stata una primavera di siccità e anche un'estate in tutta Italia, l'effetto deserto dopo 100 giorni, con una mappa che indica l'indice di siccità in Italia al 20 agosto del 2017. Le parti più colpite sono le regioni centrali, ma anche la Toscana, grande parte della Toscana, e anche una buona parte della Liguria. Interessante il reportage di Davide Frattini da Tel Aviv, che ha incontrato Ehud Barak, che oggi ha 75 anni, è stato un comandante militare israeliano dei reparti d'élite, poi ha fatto molta politica, si è speso molto senza però mai raggiungere, perché nessuno ci è riuscito, una soluzione al conflitto israelo-palestinese. E in questo colloquio con Davide Frattini dice: Israele in mano agli estremisti, posso salvarlo di nuovo. Secondo lui la separazione dai palestinesi è l'unica via possibile, cioè la teoria appunto dei due stati, che però incontra moltissime difficoltà. Un approfondimento, un reportage di Angelo Acquaro dalla Corea del Nord, dal confine che è Pyeongchang, che dista 100 km dal 38° parallelo. Nel 2018 ci saranno i giochi invernali in Corea, il sud è pronto a questi giochi invernali e i più ottimisti pensano che possa essere un'occasione per la pace. Visto che abbiamo parlato di emergenza idrica a Roma, di siccità in tutta Italia, vi segnalo la pagina 15 di Repubblica con questo dossier: piccoli gesti quotidiani per il bene più prezioso, abitudini e consumi consapevoli, l'acqua da salvare. Tutto sommato sono misure, se vogliamo, di buon senso, e forse tutti ci abbiamo pensato o qualcuno ce le ha suggerite, però qui con uno schema molto efficace e un disegno Repubblica ci spiega le regole per risparmiare acqua. Per esempio, 30 litri è lo spreco di acqua se ci si lava i denti lasciando aperto il rubinetto, quindi una cosa molto semplice da fare. Oppure 55 litri si risparmiano facendo la doccia anziché il bagno, un consiglio dato in particolare appunto in questi giorni agli abitanti di Roma. E poi c'è con fonte Legambiente una tabella che ci spiega quali sono i consumi giornalieri per pro capite di acqua potabile per uso domestico. In testa c'è Milano con 297,4 litri al giorno, pensate, seguita da Torino, Venezia, Roma, Napoli, Bologna, Bari, Palermo, Firenze e Reggio Emilia, che in questa classifica che tiene conto delle prime 10 città, contro i 297 litri di Milano, Reggio Emilia è a 129,9. Un reportage di Gianni Clerici a pagina 41 sulla tennista Maria Sharapova, che ha 30 anni, che per una tennista o per uno sportivo professionista in generale è un'età considerevole. Si stanno giocando negli Stati Uniti gli US Open, che sono un torneo molto importante che si gioca sul cemento armato. Questo titolo io non so se l'ha scelto Gianni Clerici, ma non so, sono quei titoli che tradiscono sempre un atteggiamento diverso, ecco, verso le donne, che siano sportive, professioniste o no. Il titolo è questo: la vendetta del ranking robot, che è quel sistema informatico che fa le classifiche, premia gli Swarovski di Maria. Il tema è, poi uno deve leggere per capire, perché di Maria Sharapova penso che la maggior parte delle persone se la segue conosce i risultati, non che ha una gonnellina della Nike, che è il suo sponsor tecnico, con alcuni Swarovski. Qual è il problema? Una ragazza grintosa sotto l'abitino nero. Ripeto, è sempre così, stona, insomma, è una grandissima atleta, ha superato le sue difficoltà fisiche, ma anche quelle legate ai sospetti di doping, però qui la questione è l'abitino nero con gli Swarovski. Un approfondimento della Stampa sull'assenteismo e in particolare sulle visite fiscali per gli statali, perché guarda caso, ne abbiamo parlato già in passato, i giorni in cui c'è un picco di assenteismo con varie motivazioni, nella maggior parte dei casi sono certificati di malattia, sono il lunedì e il venerdì e poi nei giorni a ridosso delle ferie. E la riforma della pubblica amministrazione ha messo a disposizione 50 milioni per i controlli, che andranno a pieno regime nel 2019. Una notizia per gli ambientalisti che ci rende non ottimisti, ed è quella che la Stampa definisce a pagina 13 la resa di Sea Shepherd a Tokyo. Questa era una nave che disturbava, cercava di disturbare le baleniere. Basta caccia alle baleniere. La caccia giapponese alle balene in Antartide è un fatto acquisito, così come lo è nei mari intorno alla Norvegia, per esempio. Sono diminuiti il numero di balene uccise, siamo passati dalle 866 del 2006 alle 333 del 2017, un numero per ora stabile rispetto alle 333 del 2016, però siamo in agosto, quindi siamo alla fine di agosto, quindi probabilmente per la fine dell'anno ci sarà un aumento rispetto al 2016. Il fondatore di questo movimento, impossibile vincere contro tecnologie e leggi antiterrorismo, però altri attivisti hanno promesso che non lasceranno i cetacei al loro destino, e sono 6.500 quello che Sea Shepherd dice di aver salvato in 12 anni di attività. Ci lasciamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli, e ancora grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, anche a chi giustamente nota i miei errori, le mie sviste e me le fa notare. Poi, per esempio, ho detto cemento armato anziché cemento, non si gioca sul cemento armato ovviamente agli US Open di New York. Da qui a, come mi suggerisce un ascoltatore, farmi vedere da uno bravo perché ho detto cemento armato, credo tantissimo nella terapia della parola e nell'aiuto che possono dare tutti i professionisti di questo settore, quindi psicologi, psicanalisti, anche psichiatri se affiancano ai farmaci un po' di, appunto, di terapia della parola. Da qui a farmi vedere perché ho detto cemento armato da uno bravo, poi no, magari lo farò per altri motivi ma non per questo. Comunque grazie per aver segnalato questo errore e avermi dato la possibilità di correggermi. Sulla siccità scrive anche il Messaggero: mappa dell'Italia a rischio, e c'è questa notizia, come sempre, che svela sempre il lato così più triste, direi, per non usare la parola peggiore, di alcuni di noi italiani. Perché a Bracciano sono scattati i furti d'acqua, ma poi per rivendere anche quest'acqua, quindi davvero sempre cercare l'opportunità in una grave crisi. Sul lago Laziale sono state denunciate 20 persone perché facevano questi prelievi fuori legge, alcuni per irrigare i campi, alcuni non si capisce ancora bene per poi fare cosa di quest'acqua rubata alla collettività. Perché il lago di Bracciano è un bacino idrico che serve la città di Roma. Il macro del Messaggero ha un approfondimento, secondo me, molto interessante di Carla Massi su come i robot stanno rivoluzionando. Si parla tanto di come stanno rivoluzionando la vita, l'organizzazione delle fabbriche, ma anche le sale operatorie. Il robot chirurgo eccellenza italiana. L'8 e il 9 settembre al Festival Internazionale di Pisa si farà il punto sul bisturi telecomandato, che diventa maggiorenne perché migliora sempre, però non è una novità di oggi. Il primo intervento fu fatto infatti nel 2009. Ogni anno nel nostro paese se ne contano tra 12 e 15 mila. Pensate che a Firenze c'è stato un trapianto di rene da donatore a cuore fermo con le quattro braccia guidate. L'Avvenire si dedica un po' anche a sua volta, diciamo, all'anniversario della morte di Lady Diana, e Elisabetta del Soldato da Londra torna sul tema che quell'evento tragico, la morte di una donna che all'epoca aveva meno di 40 anni, aveva due figli giovani, e ha lasciato il lascito di Lady Di è che i reali sono diventati più umani. E poi vi segnalo, perché forse l'avete sentita sicuramente anche qui a Radio 24, ma soprattutto letta sul Domenicale, la nostra collega Cristina Battocletti, che ha scritto un libro su Bobby Bazlen, un triestino, perché anche lei è di quella città, ma non credo sia questa la motivazione. L'ha scritto perché è stato un grande lavoratore editoriale, potremmo dire così, Bobby Bazlen, e addirittura alcuni lo definiscono il mentore degli editori. Cristina rilegge tutta la sua storia, anche alla luce di tutte le trasformazioni che ci sono state nell'editoria in Italia, che ancora ci sono. Il libro esce domani per La Nave di Teseo. Su Libero, qui saluto tanto l'ascoltatore che mi dice sempre Gattara, che mi chiama sempre Gattara. Io sicuramente Gattara lo sono, ma amo tantissimo anche i cani. L'unica ragione per la quale non ne ho è che vivendo da sola è molto più difficile gestire un cane rispetto a un gatto. Ma negli Stati Uniti arriva il difensore d'ufficio per gli animali vittime di maltrattamenti. Daniela Mastromattei ci racconta questa nuova figura dell'avvocato di cani e gatti. Vi dicevo l'articolo un po' da mani sul volante della verità sulla giustizia al rallentatore, trovate tutto a pagina 11 con anche lo schema che fa vedere il tempo medio per la risoluzione delle cause civili in primo grado, il numero di giorni, e pensate che peggio di noi, dei 28 paesi dell'Unione Europea, fanno soltanto Malta e Cipro. I magistrati lumache, processi eterni, 7,9 per ora al giorno per una sentenza, il record negativo ce l'ha Roma, un'attesa di 16 mesi per le motivazioni, e non è un'eccezione, c'è anche chi ha impiegato 8 anni. Naturalmente le motivazioni di questo sono tante, sappiamo che in questo momento, tra l'altro, il ministro della giustizia Orlando sta lavorando a una riforma della giustizia, è appena stato riformato il processo penale, ma non basta ancora, perché i numeri sono questi e tra l'altro, secondo alcune stime, questa lentezza della giustizia, che tra l'altro è naturalmente famosa anche all'estero e quindi frena molte imprese dall'operare in Italia, perché c'è non soltanto lentezza ma anche incertezza della pena, e questa lentezza costa appunto 96 miliardi, il 4,8% del PIL, spiega in questa pagina 11 della Verità, Maurizio Tortorella. Abbiamo tempo ancora per qualche segnalazione un pochino più leggera. A pagina 21 Elena Dusi, che scrive spesso di questi temi della salute, di medicina, racconta, ci riassume uno studio di Lancet, che è una rivista medica britannica tra le più famose e autorevoli, si rivolge soprattutto ai medici e agli scienziati, ma ha anche un intento divulgativo, e Lancet quindi mette in guardia: nella nostra dieta ora ci sono troppi carboidrati, ci fanno aumentare di peso e quindi sale poi il rischio di malattie cardiache, e allora meglio il burro del pane, così la scienza riabilita i grassi. A tutti gli ascoltatori, approfitto, a chi mi dice che sono lenta, aiuto, perché poi ci sono quelli che mi dicono che sono troppo veloce, che mi chiedono quando torna Alessandro Milan. Alessandro sarà in redazione oggi, gliel'ho chiesto proprio, però in onda da lunedì 4 settembre con l'avvio del nuovo palinsesto di Radio 24, non sarà più così presto al mattino ma dalle 9 in poi, e vedremo, appunto, sarà una bella sorpresa perché è un programma completamente nuovo, così come nuovo è invece il programma, la fascia precedente, che come sapete vedrà protagonista Luca Telese. Sulla questione, sulla stessa pagina di Repubblica, pagina 21, anche un articolo di Federico Rampini. La notizia la sapevamo, cioè che Amazon ha comprato Whole Foods, che è questa catena di supermercati dove hanno molto spazio i prodotti biologici. Famosa anche perché il prezzo medio, come spesso accade per gli alimenti biologici, era più alto dell'equivalente, diciamo, non biologico. Jeff Bezos, una volta che l'acquisizione è stata approvata, ha subito detto che avrebbe abbassato i prezzi, e da qui Federico Rampini ci racconta come a New York, dove ci sono due enormi negozi di Whole Foods in due piazze molto famose, Columbus Circle vicino a Central Park e Union Square, che è più nella parte sud di Manhattan, e si vedevano soltanto persone con i sacchetti di Whole Foods. Grazie ad Amazon l'America scopre il cibo biologico. È sicuramente affascinante, se vogliamo, la dichiarazione di Jeff Bezos. Può nutrirsi bene anche chi non è ricco, e siccome sappiamo che gli Stati Uniti sono gli inventori del cosiddetto, a parte il fast food, ma anche il junk food, cioè il cibo spazzatura, molto, molto calorico e poco nutriente, potrebbe essere una svolta questa perché un problema del cibo buono, biologico, è, come dicevamo, che mediamente è più costoso dell'equivalente non biologico. Ultima segnalazione dalla Repubblica sulla questione Fincantieri: manca poco e ci sarà l'incontro tra i francesi e gli italiani per risolvere questa questione dell'acquisizione da parte di Fincantieri dei cantieri STX, il ministro dell'economia Le Maire rilancia, scrive Repubblica, sul controllo paritario, che però è esattamente quello che il ministro dell'economia Padoan e dello sviluppo economico Carlo Calenda hanno detto di non volere. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora grazie a tutti gli ascoltatori che mi tengono d'occhio così da vicino, o d'orecchio potremmo dire, e un appuntamento, una buona giornata da Giulia Crivelli, appuntamento a domani.